Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. A questo punto la notizia è ufficiale, la frittata è fatta. Allegramente col consenso generale la frittata è fatta. Ma stiamo approfittando per insultare un galantuomo che ha presentato un emendamento. Ma ve la prendete con il senatore Cociancic! Ve la prendete e sapete perché ve la prendete con lui! Perché non volete la riforma! Voi non volete e noi la proveremo la riforma! Noi la proveremo! E non insultate i vostri colleghi! Non insultateli! Perché... Questo a casa mia si chiama truffa. Truffa. Avete fatto una burla al Parlamento, vergognatevi. Abbiamo subito la irricevibilità degli emendamenti. Lo dico al senatore Cociancic, che ai suoi scout racconterà di essere stato un maestro di cerimonie della nuova Costituzione. Complimenti! Noi conoscevamo l'emendamento Fino Chiaro, non conoscevamo l'emendamento Cociancic. Studiate, cari amici, bisogna ora conoscere il senatore Cociancic, il cui nome già è difficile da dire, altro che irricevibilità. Il senatore Cociancic è stato il protagonista della giornata parlamentare di ieri al Senato. Ha presentato un emendamento, in pratica riscrive l'articolo 1 della riforma del Senato e con questo si bypassano tutta una serie di voti. È stato chiamato l'emendamento Grimaldello, l'emendamento mini canguro, l'emendamento canguro, per far saltare le votazioni, e le accuse le avete sentite. Senatore Cociancic, lei ha fatto un affronto alla democrazia! Cociancic! Gli ha dato del jihadista, uno gli ha dato del lei è un jihadista, un altro gli ha detto bravo, bravo! Licenziato! No, beh, licenziato non lo so, anche se Oscar Giannino la butta lì. No, licenziato non si può dal Senato, ma avrebbero voluto... Beh, oggi il senatore Cociancic fa una serie di interviste sui giornali, il suo quarto d'ora di celebrità è guadagnato. Il senatore... Basta! Basta! Basta! La riforma del Senato. Però battagliano. 6:32 minuti, questo è 24 mattino, sono tornato a Milano, negli studi di Milano c'è Peter Bescapè in regia, c'è Lorenzo Nespoli che è tornato da 3 giorni un po' malaticcio, eccolo qui. E ragazzi, oggi c'è il Parlamento in cui ritorna lui. È il nostro grandissimo. Vogliamo aprirlo il Parlamento così lo scopriamo? Ritorna da noi. Vado a prendere un caffè. Il nostro grandissimo Albertone Forchielli. Eccolo qui. Ciao Lino. Ah no, ho detto eccolo qui, non c'è. No, eccolo, ecco. Sono qua. Il fuso orario, è un po' di ritardo per il fuso orario. Dove sei, Albertone? Sono sempre a Hong Kong. Sempre a Hong Kong. Ma chi ti muove da lì? Chi ti muove da lì? Nessuno. È da febbraio. da febbraio. Ogni tanto, Alberto Forchielli, siccome voi dovete sapere che in rete ci sono i cosiddetti haters, cioè gli odiatori di professione, quelli che invidiosi appena, e Alberto Forchielli li stimola così, fa delle foto con sullo sfondo le piscine e si vedono solo i suoi due piedini, i suoi due piedini con piscine di alberghi ovviamente a 5 stelle, se non 6, 7, 8 stelle. Ma qual è il massimo di stelle di alberghi? C'è anche... Credo 7, nel golfo ci sono i super, ma io ho sempre saputo 7, o forse ce n'è uno a 8 adesso. Sì. Devi andare a frequentarlo, com'è che ti manca ancora? Perché io nel golfo non sono mai, io ho paesi musulmani, guarda, ho vissuto in Malesia 2 anni, sono stato 2 volte in Marocco, però non è... Non mi diverto molto, se cerco di evitarli. Ah. Cioè, non è il massimo stare in un paese musulmano, capito? Non è un bel vivere. Non è un bel vivere, no. No, così. Cioè, perché cosa che non puoi fare in un paese musulmano che puoi fare, che ne so, a Hong Kong? Praticamente tutto, capito? Se ci sono pieno di migranti, poveracci, i ricchi stanno con i ricchi, i poveri stanno con i poveri. Le donne stanno da un'altra parte, vanno in giro col chador, sarà mica bello. Sono stato qua a Lumpur l'altro giorno, ci sono tutti questi ragazzetti sauditi davanti, con tutti fighi, con le nacchie, e dietro queste povere donne tutte nere che stampigano, capito? Mi fa un po' pena, capito? Ti fa pena. Cioè, non è un bel vedere. Non è un bel vedere. Loro possono fare quel che vogliono, io però, capito, se possibile... Non ci vado, Sto a Hong Kong. Capito? Dove? Sì, non è bello all'occhio, capito? Posso, non ci vado. Vabbè, il nostro Albertone Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia, fondatore di Mandarin Partners, imprenditore, col suo occhio critico sull'Italia. Do il numero per i vostri messaggi: 349-238-6666. Parliamo di tutto, come sempre, Alberto. Prima, però, dobbiamo fare un aggiornamento su Mr. B. E voi sapete che qua da un po' di tempo. Anzi, prima di tutti, Alberto Forchielli ha detto che Mr. B, quello che vorrebbe comprarsi un po' del Milan, è un cioccapiatti, giusto per tradurre. Cioccapiatti, vogliamo ricordare cos'è in bolognese, un venditore di balle, insomma. Sì, è uno che fa molto rumore, poi dopo chiude poco, insomma. Cioccapiatti. Allora, pare che sia arrivato a Milano, è arrivato a Milano, ma forse chiede un po' più di tempo. Insomma, è un cioccapiatti o no questo Mr. B? Perché qua... Ma secondo me... Beh, secondo me qualcosa portiamo a casa, per esempio presto San Siro risparmierà sull'illuminazione perché basteranno i bengala di B a illuminarla, per dire. Sai cos'è un bengala, vero? Un bengala. Beh, io di bengala conosco, sai, quelli che si sparano, i bengala. No, i bengala in gergo sono assegni fatti da conti estinti, da distinguere dai cabriolet che sono assegni scoperti. Ah, ecco. Quindi in gergo... Uno che fa dei bengala, cioè fa assegni da conti estinti. Non ha molti soldi. La mia tesi è che molto presto il Milan si potrà risparmiare i costi dell'illuminazione, almeno quello. Molto bene. Ti ringrazio per la mia squadra del cuore. Mi hai rinfrancato veramente per iniziare la giornata. Allora, vabbè, quindi Mr. B è un cioccapiatti. Questo secondo me dovremo attendere. Sì, ossia, un po' non era granché, poi il crollo delle borse cinesi l'ha proprio appiattito, perché fino al crollo della borsa cinese, dai, allo stock market di Shanghai potevi fargli goiare anche un bilico di ghisa, adesso non più, per cui c'era questa euforia pazzesca. Una volta che è venuto giù la borsa, la minima speranza che lui aveva di poterlo quotare, per salute, questa è la mia personale Vabbè. Comunque, caro Albertone, qui come vedi in Parlamento invece si litiga, cioè tu lo conoscevi il senatore Kocancic, già dirlo non è facile, Kocancic. Il Boy Scout? Sì, un Boy Scout, è vero. Lo dice tu con... Tu la conosci la vecchia gag sui Boy Scout? No, temo già cos'è la vecchia. Bravi, i Boy Scout sono cretini, bambini vestiti da cretini, guidati da cretini, vestiti da bambini. No, dai. Lo sapevi? No, beh, no, no, salutiamo, salutiamo tutti i Boy Scout del mondo, dai Albertone. Vabbè, ma è una gag storica, sì. Una gag storica. La conoscono anche loro. Sì. Ah, ecco, ecco. No, ma comunque Cociani si dimostra, è l'eccezione, conferma la regola, è furbissimo. Beh, certo. Ha scritto questo emendamento per bypassare un po' così, insomma c'è stata, loro gli ha messo 85 milioni, non so, dalla Lega. Ha fatto bene. E lui ha fatto bene, no? Non se ne può più, guarda, il Senato va eliminato, qualunque sistema bicamerale finito, quella è tutta gente che mangia soldi tra di vento, che vadano a casa loro, i loro commessi, non se ne può più, guarda. Però non e tutto questo ostruzionismo non se ne può più. Non andrà, non verrà eliminato così, rimarrà un Senato di 100 senatori. È compromesso, capito? È compromesso, ma se era per me, capito? Lo convertivi in un museo, sai, no, la mia teoria. Lo convertivi in un museo, addirittura. Sì, sì. Museo di che? Sì. Delle cere, no, museo. Sì, museo delle cere, sì, buona idea, grazie. No, prego, ma prego, adesso se la rivende e raccoglie fondi, raccoglie fondi. Adesso la twitto. Adesso. Dai, è una roba pazzesca, sono 2 anni con tutti questi qui a fare l'eccezione, il mondo crolla, stanno arrivando, capisci, sono guerri, mica questi sono ancora qui a fare il pelo nell'uovo su queste robe per pagarsi degli stipendi decorosi, è veramente indecente, guarda. Non si capisce niente, è indecente. Visto da fuori è indecente. Su questo tema sono d'accordissimo con Renzi. Mm. Ma neanche un compromesso fuori proprio, basta. Ma Renzi però, qualcuno allora dice Renzi doveva abolirlo, invece Renzi è senatore Cociancic, c'è anche è amicissimo personale di Renzi, saranno i Boy Scout che li hanno accomunati. Ma Alino, ma non ce la fa, come fai a chiedere alla gente, alle tue stesse persone, di commettere suicidio, capito? Quella è tutta gente che non troverà mai lavoro in vita sua, capito? Più tutti i commessi, tutta l'ambaradan che c'è intorno, ma è chiaro, cioè, Renzi non è mica Superman, cioè, non si può, è una dimostrazione dei limiti, capito? Di quanto questa gente sia attaccata alla poltrona con l'attac. Mangia pane a tradimento, così li hai definiti, mamma mia. Ah, sì, pazzesco. Addirittura. È pazzesco. Vabbè, di queste cose tanto a Hong Kong non se ne parla, però hai visto il PD è ben diviso, cioè c'è anche chi voterà, poi alla fine hanno trovato la quadra, come si suol dire, no? Però per un po' di tempo hanno battagliato l'opposizione, i bersagnani contro i renziani, gli dattoriani, conosci Dattorre, Speranza. No, guarda, io so solo, ma io non posso perdere tempo, che io devo lavorare, cioè, non è che posso perdere tempo dietro i caimani. Io ti posso solo dire che il PD secondo me passa più tempo in sala gesti per ridurre le fratture interne che in Parlamento. Ah, ecco. Questo ti posso garantire. Non se ne può più. E poi sti parlamenti, ma tu l'hai sentito? A parte che non è, ma tu l'hai sentito il discorso della Boldrini sull'Unione Europea? Sì, insomma, l'ho seguito. Ma hai capito che livello? È una roba che era metà tra una filastrocca della Befana e un verbale dei carabinieri. Cioè, ma perché la filastrocca della Befana? No, ma hai dato della Befana alla Boldrini. No, filastrocca della Befana. Discorso. Vacci piano a incastrarmi. No, non è che ti vuole incastrare. Scusa, hai detto che ha fatto una filastrocca della Befana. Filastrocca della Befana. Il discorso. A metà tra la filastrocca della Befana e il verbale dei carabinieri. Ah. Tutto enfatico, con la domanda finale. Volete l'Europa unita? Sì! Volete? Che madonna! Ma neanche... Cioè, scusa, tu dici che devi lavorare e hai avuto tempo per seguire il discorso di Laura Boldrini. Vabbè, quello me l'hanno mandato perché... Te l'hanno riassunto. Sì, ogni tanto, sai, sono pieno di gente che mi manda roba da leggere. Perché non ti vedo durante un incontro con partner internazionali a dire scusate un attimo perché adesso per mezz'ora devo seguire il discorso di Laura Boldrini all'Unione Europea. No, beh, mi mandano un sacco di roba, quello della Boldrini, potevo... Ho dato un'occhiata, dopo sono rimasto abbastanza divertito. Va bene. Nella sua comicità. nella sua comicità addirittura. Va bene, comunque, allora, questa riforma del Senato l'abbiamo sistemata, si deve fare così, tu l'avresti abolito e ci faresti un museo delle cere, suggerimento mio, e quindi va bene. E hai visto, però ci sono anche tanti movimenti, ecco, un'altra persona sulla quale c'è molta attenzione è Verdini, adesso tutti a guardare Verdini perché pare che stia portando via un po' a Berlusconi, e ne sta portando via uno dietro l'altro, eh. Poi porta i voti a Renzi, e quindi l'accusa di Verdini che sta manovrando, ecco, vabbè, ma non so, ma a te queste cose magari da Hong Kong, come dire. Ma tu dici quel gruppo di trasformisti lì il gruppo di mutanti con Verdini? Quelli sono come le drag queen. Secondo me alla fine faranno anche la parodia di Mina a fine spettacolo. Non me lo vedo molto Verdini, così a sfoggiare. Uso la testa e ci sta. Ci vuole una bella immaginazione. Verdini con le piume. E gli faccio un complimento. Vabbè, ma in ogni Parlamento ci sono stati quelli che cambiano casacca, no? Come li chiamano intanto? Volta Gabbana, tu drag queen, ecco, giusto per andare sobrio. Cioè, i trasformisti, Verdini ha altri problemi con la giustizia, ma quella è roba sua. Capito? Vabbè, quelle sono cose. No, esatto. Appare molto, io poi non so niente, però appare molto sui giornali collegato ad una serie di problemi giudiziari, poi veda lui. Vabbè, qua senti, caro Alberto Forchielli, alla Zanzara hanno fatto, non so se è giunta l'eco anche a Hong Kong, hanno fatto lo scherzo, hanno preso al nostro Andro Mercù, imitatore, hanno fatto fare la voce di Renzi e hanno chiamato Monsignor Paglia del Pontificio Istituto della Famiglia, e Monsignor Paglia ha detto che Ignazio Marino si è imbucato dal Papa. Ma senti solo uno stralcio di questa. Lo dico in toscano, si è imbucato. E certo che si è imbucato. Cioè, poi io non so che cosa ci hanno detto lui e il sindaco Natta, era un bravo uomo, una brava persona. Però nessuno l'ha invitato ufficialmente da parte nostra, assolutamente. Io con lui parlai una volta, ma così, insomma. Non è stato invitato. Marino si è imbucato nel viaggio del Papa. Allora, dopo il traffico, ripartiamo da qui, perché udite, cari ascoltatori, è venuta fuori la notizia ufficiale che per il viaggio di Ignazio Marino i romani, dunque i contribuenti, hanno pagato il comune 15.000 euro, che per carità non è una cifra esorbitante per un comune come la capitale, ma qui c'è una questione proprio, insomma, Ignazio Marino aveva detto che non costava niente, costo zero, e sui giornali oggi viene svelata questa cifra, 15.000 euro è costato il viaggio a Marino, quindi non è tanto la cifra in sé, ma l'ennesima cosa per cui dicono Ignazio Marino ha detto una piccola bugia, costo zero, e invece 15.000 euro. E come mai dice una piccola bugia? Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Vi presenta Alessà, ma Marino è partito, è toccato salvato per le vite sopra l'aereo, e poi è nato lì in America e ha detto che ha fatto quello, quell'altro e quest'altro. Ma io dico, no, la metropolitana si è sbragata, Roma, ma non si vergogna, ma non si vergogna, non si vergogna, vergogna! Sì, Alessandro Milan, dalla Gruber, faceste carriera. Ah, buono, buono. Milan, t'ho visto, ti sei venuta la Gruber a Rufianà, t'ho visto, sulla 7. Bravo Milan, bravo, via Rufianà, ciao. Allora Milan, in dialetto romagnolo si dice... Niente doni, niente puteni, i parini fuori il paio. Me a draghi colmatozza va a 3 milimon. Ecco, io adesso qua avrei bisogno di un aiuto, dal nostro Alberto Forchielli. Albertone, hai sentito l'ultimo messaggio? Sì, ma non ci sono arrivato neanch'io. Cavolo, io ho capito qualche parola qua e là, ma... Non ci sono arrivato neanch'io. Alcune erano abbastanza chiare, alcune... Non ho capito chi ce l'avesse. No, questo sì. No, ma hai capito tutto il senso di quello che ha detto? No, alla fine no, ha detto sì, è un son modi di dire, capito? Ma certo, non ho capito nei confronti di chi fosse diretto. Non lo so, forse a me, non lo so. No, non a te. Non a me. No, non ero cattivo nei tuoi confronti. Ah, vabbè, quindi no. Era cattivo, no, perché io non ho neanche capito. Vabbè, insomma, comunque siamo con Albertone Forchielli. Allora, caro Alberto, hai visto il sindaco Marino, 15.000 euro, questa è la cifra. La gente qua è arrabbiata. Devo dire che io ieri ero a Roma, parlavo con i tassisti. C'era chi sono tutti abbastanza, vabbè, ma a Roma è così, sono tutti molto molto fumantini, no, abbastanza arrabbiati. Però tu, ma sai, ma secondo me Marino è uno di quelli che si apposta nei pressi di San Pietro per infiltrarsi nei matrimoni. Sai, quelli che vanno nei matrimoni, vanno a mangiare gratis, perché poi passano a metà, i parenti dello sposo pensano che sia amico della sposa, i parenti della sposa pensano che si infilano in mezzo e mangiano. Per me Marino è uguale. Ecco, sto viaggio qui a Filadelfia, dato, capito, con la fascia tricolore in prima fila, ma no. Poi tutto sta andare in America, ma con quella faccia da frate cionfoli non potrebbe andare a Camaldoli, invece sarebbe meglio. Io non so, me lo ricordo, frate cionfoli, uguale, fra cionfoli, sì, almeno frate cionfoli andava a Sanremo, capito? Sì, Ma io potrei andare a Camaldoli se non ce la fai cantare. Basta che sto parlando dell'America, sempre in America. Forse sì. Secondo me dentro di sé Marino, che adesso tiene duro, ma è un po' pentito di essersi buttato in questa avventura, cioè, perché come vuoi che finirà? Comunque finirà male, cioè, perché come fai a risollevarti? Non lo so. Forse. Ma dipende anche da come vede il mondo lui, perché se ognuno vede il mondo a modo suo, cioè, non è che tu puoi entrare nella sua psiche, capito? Magari lui è anche orgoglioso di quello che ha fatto. Ah, ma sicuramente. Chi lo sa? Chi lo sa? Vabbè, tu Alberto, ti faccio parlare di cose italiane, ma non lo so, avrai i tuoi sguardi internazionali. Che succede nel mondo? Ecco, cioè, dici due cose, due notizie che succedono dal tuo punto di vista, l'osservatorio di Hong Kong. Una cosa di cui nessuno parla è il fatto che la Russia sia entrata in Siria, e tutti ne parlano. Certo. Ma il perché è interessante? La Russia 2 anni fa ha fatto un'enorme virata verso la Cina, dicendo era un pivot verso l'Asia, dicendo vabbè, andiamo verso la Cina. Il problema è che in 2 anni non ha battuto chiodo in Cina. Sono arrivati appena 1 miliardo di investimenti, un po' è caduto il prezzo del gas e del petrolio, per cui tutti questi fantastici investimenti che i cinesi dovevano fare in Siberia non conviene più farli per portare gas, fanno un po' di petrolio e basta. Un po' si è bloccata l'economia russa, per cui i cinesi cosa vado a investire in Russia con le sanzioni occidentali? Non mi conviene, perché non c'è ritorno, è un paese senza domanda. E un po' i cinesi sono terrorizzati anch'essi dalla carenza istituzionale russa, capito? Perché i cinesi sono fatti. Per cui lui è andato in Cina con grandi speranze, strombazzato, però ho capito che se non sblocca Occidente non sblocca neanche Oriente. Capito, quindi, l'analisi geopolitica. Quindi torna indietro cercando di affrancarsi l'opinione pubblica occidentale, ma ci riesce, capito? A me il Putin che entra in Siria mi va benissimo, perché tanto il Medio Oriente, che sia la Siria che sia la Libia, se non entrano come un accordo USA e Russia, con l'appoggio simpatico dei cinesi, che non possono vedere i musulmani, soprattutto quelli atlantisti, capito? È l'unico triangolo che può pacificare tutta l'area, sia l'Iraq che la Libia. Non c'è altro da fare. Mettono d'accordo loro. Ma infatti adesso dopo 2 anni si sono rivisti Obama e Putin. Certo, c'è una visione ben diversa sul destino di Bashar Assad, però qualcuno dice che già il fatto che siano rivisti è un buon segno. Vabbè, caro Alberto, qui siamo in conclusione, non ti ho chiesto niente di Renzi, non ti vedi che dopo, se no tu poi... Non so, vuoi dirci qualcosa di Renzi? Come lo vedi? C'è stata un po' di occupazione in più, dice il Jobs Act va bene, c'è... Ah, sai, Renzi è un volpino. Un volpino. Ha iniziato con una squadra di governo ridotta, poter vedere le poltrone da regalare quando le cose del PD si mettevano male. E come quella la campagna acquisti che è fatta nella minoranza, ma altro che spending review, torniamo alla vecchia spending e poi più. Tra un po' ci sarà anche uno strapuntino per Scilipoti, te lo dico io. No, Scilipoti, dai, anche uno strapuntino per Scilipoti, cioè deve imbarcare un po' tutti. Sì, sì, per me sì. Che gli fa comunque, fare? Comunque, intanto scarciofacchi sopra il trofo del cane, che non c'è male. E poi c'è la scoperta dell'uomo di Naledi. L'uomo di Naledi, sì, è chiaro. Sì, sai che ha scoperto quell'omino di 1,40 che sbugiarda le teorie dell'uomo di Neanderthal. Sì, certo. Per me quello lì, in realtà, quello lì è stato lo zio di Brunetta seppellito tutto in fretta. No! Tutta fretta. No, sì, sì. No, quello sì, sì. E poi c'è il problema della Cina che si è inclinata e non si raddrizza più neanche con una tonnellata di Chalice. Questo è un altro problema che abbiamo. Vabbè, lasciaci poi, con questi due grandi problemi. Lasciaci con l'ultimo problema, finalmente. No, l'ultimo problema, sai, dopo Boston anche Toronto ritira la candidatura alle Olimpiadi, ma non sarà che la dan persa per fagare contro Roma Capitale? Oppure non è che ex Olimpiadi sono bidoni che preferiscono rifilare a noi? Ce l'hanno rifilato. Questo lo lascio ai posti. Ce la lasci come ultima chicca. Albertone Forchielli, ti ringrazio. Io non so quando ci risentiremo, perché forse vai negli Stati Uniti, non so, ti muovi. Comunque, novembre, così intanto piscine, piedi e hotel a 7 stelle. Questo Albertone. Grazie Alberto, ciao, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Siamo qui, cari ascoltatori, le 7:17 minuti. Allora, ben ritrovati. Siamo a parlare di vari temi anche oggi. Avremo ospite Carlo Freccero del CDA della RAI per parlare un po' di quello che sta succedendo, i rapporti tra la politica e la RAI, per l'appunto RAI 3, ma non solo, avete sentito, arriva anche Netflix, cambia il mondo della TV. E poi avremo ospite anche il vice ministro degli esteri Benedetto Della Vedova. Sapete che l'attualità internazionale ovviamente è in primo piano, i bombardamenti della Russia in Siria. E poi anche questa campagna che continua, vogliamo continuare anche qui a 24 mattino per cercare di mobilitarsi per salvare la vita a un condannato a morte in Arabia Saudita, questo 17enne all'epoca dei fatti arrestato perché ha partecipato a una manifestazione contro il regime ed è stato condannato e dovrebbe essere eseguita la condanna a breve per crocifissione. Questo in Arabia Saudita, ma andiamo a leggere i giornali. Eccoci qui, allora, in questo giovedì 1 ottobre, intanto i titoli, l'attualità internazionale, l'apertura del Corriere della Sera, raid russi, tensione con gli Stati Uniti, questo è il titolo di prima pagina per il Corriere della Sera. Mentre alto là Stati Uniti ai raid russi in Siria, questa è l'apertura del Secolo XIX, il Messaggero invece raid russi in Siria, no degli USA o degli Stati Uniti. Anche La Stampa, raid russi in Siria, gli USA, fermatevi. Questi sono i giornali che aprono sull'attualità internazionale, anche Il Giorno, raid russi, l'ira di Obama. L'attualità politica invece, nuovo Senato, primi sì in aula, lite su Grasso, così apre Repubblica. Invece Libero, Renzi vede i sorci verdini. È il sondaggio shock per Matteo, secondo una simulazione fatta dalla sondaggista Ghisleri, l'appoggio dell'ex berlusconiano Verdini fa perdere 7 punti percentuali al PD. Il Giornale invece, ladri di Costituzione, l'imboscata, è quello che è successo al Senato, cercheremo di spiegarlo più avanti. L'apertura del Sole 24 Ore invece sulla finanza, borse, bond in rialzo per l'effetto deflazione, questo è il titolo di prima pagina. Anche il Fatto Quotidiano si concentra su varie tematiche che vengono accomunate, se questa è democrazia. 1. La riforma del Senato. 2. La pesca di Verdini. 3. Un'intervista al conduttore di Ballarò Giannini che parla dell'attacco di Renzi alla RAI. E poi 4. Nel 2016 altri 2 miliardi di tagli alla sanità. Ecco, mette insieme queste cose il Fatto Quotidiano e il titolo di prima pagina è Se questa è democrazia. Ma cari cittadini di Roma o cari italiani, il tormentone del viaggio negli Stati Uniti di Ignazio Marino forse ha una svolta dal punto di vista delle cifre. Marino aveva detto costo zero per il comune. Secondo i giornali c'è stato un blitz della lista di Alfio Marchini, che è riuscita a sapere quanto sarebbe costato invece questo viaggio per i contribuenti. 15.000 euro, tanto è la cifra del costo del viaggio di Ignazio Marino a Filadelfia, lui e alcuni del suo staff. Altro che missione a costo zero, Marino ha speso 15.000 euro, questo è il titolo di pagina 9 del giornale, ma tutti, anche Repubblica, ecco i conti di Marino, spesi 15.000 euro per il viaggio negli Stati Uniti. Giovanna Vitale scrive su Repubblica: Marino ha dichiarato il falso. Aveva assicurato che il viaggio negli Stati Uniti non sarebbe costato un euro ai cittadini, invece è costato oltre 15.000 euro. Questa è la dichiarazione di Alessandro Onorato, che è il capogruppo della lista Marchini, che riesce così a rompere il muro di riservatezza eretto dallo staff di Marino sulla trasferta americana. Dopo due giorni di marcamento a uomo è stata ottenuta la documentazione relativa alla contestata missione, oltre che del sindaco e dell'addetta stampa Miriam Lepore, entrambi a carico della Temple University, ma solo a Filadelfia, oltre al capo del cerimoniale Francesco Piazza e la consigliera diplomatica Rosanna Coniglio. Quest'ultima ha ricevuto 5.900 euro a testa come anticipazione di cassa, ai quali bisogna aggiungere 1.500 euro per la prima notte trascorsa a New York da Marino e dalla Lepore. Siccome però in questo calcolo non sono contemplate le spese sostenute dal primo cittadino con la carta di credito, il conto finale rischia di essere molto più alto. Questo dicono dalla lista Marchini, dicendo: siamo riusciti a entrare in possesso dei documenti. Anche Libero la mette così: i romani hanno pagato la gita di Marino. Vediamo e vedremo se sarà chiusa questa vicenda, che sembra proprio una telenovela. Mentre, attenzione, i nostri amici, spesso qua invitiamo anche Aurora Lussana, che cita i nostri amici di Radio Padania, ma pare brutte notizie in arrivo, questo almeno secondo tutti i giornali. Matteo Salvini starebbe per chiudere Radio Padania. Dopo aver chiuso La Padania, cioè il quotidiano cartaceo, di cui Aurora Lussana è l'appunto direttore, ora rischia Radio Padania. Salvini archivia La Padania, titolo del giornale. Chiude anche la radio, è in prima pagina, ma anche Il Secolo XIX, addio Padania. Dopo TV e giornale, Salvini spegne anche la radio, i conti in rosso, il leader è pronto a liquidare anche l'ultimo simbolo della Padania, perché, racconta il giornale, ormai la comunicazione della Lega è un progetto di cosiddetta Lega 2.0, che può fare a meno dei media tradizionali, non certo dei social network, Facebook, Twitter in particolare, su cui Salvini ha concentrato energie e disponibilità, e dunque la possibilità di liquidare e chiudere un simbolo non sentito più. Anche sulla stampa, addio Padania. Dopo giornale e TV, Salvini spegne la radio. Goodbye Padania è uno dei titoli che va per la maggiore. Ma veniamo a una notizia di cronaca che mi ha molto molto colpito. La trovate ovunque. Non è da mani sul volante, cioè è da mani sul volante, ma non è quella che vince il premio di oggi. Come si fa a guadagnare da impiegato comunale 2000, 2005, 1008 come stipendio e avere lingotti d'oro nei cavò? Se lo sono chiesto ovviamente gli inquirenti, la procura di Milano, quando hanno trovato appunto dipendente del comune di Milano con lingotti nei cavò, impiegati comunali con i lingotti nei cavò. Giuseppe Guastella, pagina 16 del Corriere della Sera, ma c'è ovunque appunto la notizia, sul Giorno una pagina: lingotti d'oro, soldi, gioielli, orologi, il tesoro dei furbetti degli appalti. Gli appalti, ecco. Anche il giornale: Milano, mazzette in comune, spuntano 32 lingotti d'oro. Ma torniamo al Corriere della Sera, sentite Giuseppe Guastella. Quanto tempo ci vuole a un impiegato con moglie e figli a carico che vive a Milano con uno stipendio di meno di 2.000 euro al mese per mettere da parte 32.000 euro con cui comprarsi un lingotto d'oro da un chilo? Anni, se non una vita intera di risparmi e dure rinunce, ma non per i due dipendenti e l'ex dirigente del comune arrestati con un imprenditore in un'inchiesta su appalti per l'edilizia pubblica truccati a suon di mazzette. A loro di lingotti da 1000 grammi la Guardia di Finanza ne ha scoperti 32, insieme a soldi in contanti e gioielli, un totale di 2 milioni di euro. I quattro avevano trovato un ottimo modo per fare denaro, che poi per i dipendenti comunali era un secondo lavoro illegale. A tirar le fila di quella che per la Procura di Milano è un'associazione a delinquere c'era Mario Luigi Grillone, che dal 2001 è stato uno stimato dirigente del Comune di Milano, assunto a consulenza per occuparsi di edilizia e opere pubbliche. Secondo l'inchiesta, Grillone è stato socio occulto di una società, la GSSRL, impresa che lavorava nei subappalti della manutenzione del patrimonio edilizio del comune dell'Aler. La GS gli versava 5.000 euro al mese attraverso un compenso fittizio destinato a sua madre, cui si aggiungevano una fiammante Porsche Cayenne con pieno e telebus pagati, cellulare, ristrutturazione di una casa, contributo da 50.000 euro per una barca, contributo da 450.000 euro, due televisori, due condizionatori e stipendio da 5.000 euro per il fratello. E da qui nasce tutta la truffa, poi raccontata nei dettagli. Il dato di fatto, lingotti d'oro trovati nelle banche. Ma non è questo, è quest'altro, l'articolo che vince il premio Oggi Mani sul Volante, l'articolo che mi fa più incazzare di questa giornata. Ed è l'ennesimo tormentone del carrozzone Enit, l'ente nazionale per il turismo. Gian Antonio Stella racconta in prima pagina del Corriere della Sera l'ultima trincea dei 78 dipendenti. Elmetto e baionetta, i 78 dipendenti italiani dell'Enit sono in trincea e diffidano il governo. Alto là alla nascita della nuova agenzia per il turismo. C'è da capirli, quasi uno su due è un quadro, un dirigente, la busta paga è più alta che alla Casa Bianca. È da un anno e passa che il vecchio Enit, fondato 96 anni fa, è stato affidato a un commissario. Ma c'era una data, quella proprio del 1 ottobre, per rivedere tutto. Sì, ciao, scrive Stella, anche la data del 1 ottobre, che poi è oggi, che registrava già un ritardo, è saltata. Contro il passaggio dei dipendenti piovono ricorsi, sia dei dipendenti Enit, che non vogliono perdere il loro status, sia dei precari di Promuovi Italia, che, avviato il fallimento societario, chiedono di essere recuperati all'interno del settore pubblico. Immaginatevi Matteo Renzi, furibondo. D'altronde, racconta Gianantonio Stella, la storia dell'Enit, la storia di tantissimi sprechi, con sedi faraoniche nel mondo, megalomani come quella di New York al Rockefeller Center, che prima di venire spostata dal commissario all'Istituto Italiano di Cultura costava 400.000 euro l'anno. Eccolo qui, il carrozzone dell'ente per il turismo spende per gli stipendi e non per l'Italia. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che, quando queste cose capitano, dice: sono cose che capitano. Amore, ma che sta facendo? Sembra questa radio attaccata alle ricci. E state zitti, che mi sta sentendo la rassegna stampa Alessandro Milan. Vatin! Beh. Ma non è male, Anche con la doppia voce, con l'interpretazione. Grandi, cari ascoltatori, la segreteria telefonica è a vostra disposizione, lo 02 4652 4492, per mandare i vostri siparietti, chiamiamoli così. Allora, che è successo ieri al Senato? Giornata movimentata, giornata per la riforma del Senato movimentata, che ha visto un protagonista assoluto, una persona di quelle che di solito sta in seconda fila, una persona il cui nome forse alcuni di voi non hanno neanche mai sentito pronunciare, il senatore Kocianczyk. Senatore Kocianczyk, Roberto Kocianczyk, presidente mondiale dei Boy Scout. Grande amico di Renzi, tra l'altro. E infatti il Fatto Quotidiano dice: è stato anche il capo di Matteo, in quanto Boy Scout Renzi, e lui presidente degli scout a livello mondiale, quindi il capo di Matteo Renzi, si può dire, oltre che amico personale. Ha presentato un emendamento che in pratica riscrive l'articolo 1 della riforma del Senato, e consente così alla maggioranza di evitare 19 voti segreti che il presidente del Senato Pietro Grasso aveva ammesso. Per carità, tecnicismi parlamentari, il dato di fatto è che dall'opposizione si urla al golpe, colpo di Stato, colpo alla democrazia, lei è un jihadista, gli hanno detto. Il senatore Romani che ha detto Cocianci, ci alzi la mano, che non la conosciamo, così si fa riconoscere, si fa lui invece fa un paio di interviste, sia al Corriere della Sera, sia a Repubblica, a dire ma che l'ho scritto io quell'emendamento, non sono il prestanome di nessuno, non sono il portavoce di nessuno, anzi gli scout, dice al Corriere il senatore Cociancic, mi hanno insegnato a ragionare con la mia testa. Ora la riforma, beh, mai dire gatto finché non lo hai nel sacco. Incrociando le dita per il voto di oggi, però dico questo: mi sfugge il motivo per cui se un emendamento lo scrive Romani è un esercizio di democrazia, se lo scrivo io è un attentato alla Costituzione. Ecco, le è andato del prestanome, ma figuriamoci quale sia la mia visione di un Senato come cerniera tra Europa, Stato e Regioni, l'ho scritto in tutte le salse sin dalla prima lettura. Allora, ha scritto davvero il senatore Cociancic questo emendamento oppure gli è stato dettato da qualcuno e l'accusa è quella, ti è stato dettato da qualcuno al governo? Secondo, retroscena, Wanda Marra sul Fatto Quotidiano, ma anche La Stampa lo scrive con Amedeo La Mattina, pagina 9, in realtà c'è il nome e il cognome di chi avrebbe suggerito, se non materialmente scritto e poi passato al senatore Cociancic in aula, questo emendamento. Si tratta di un funzionario di Palazzo Chigi, dello staff di Matteo Renzi. Si tratterebbe di Paolo Aquilanti, distinto signore dai capelli bianchi, scrive La Stampa, che ieri si aggirava tra il transatlantico di Palazzo Madama e la sala del governo. Teoricamente e formalmente né lui né lo staff di Gran Commì del ministro Boschi avevano titolo per trovare il modo di evitare il voto segreto sull'articolo 1 che poi si è trasformato nell'emendamento fatto firmare al senatore Cociancic. Visto che è materia parlamentare, non di competenza governativa, eppure, fa notare La Stampa, erano lì, tutti lì. E Aquilanti è stato uno dei principali ideatori di quell'emendamento che ha scatenato l'ira dell'opposizione. Lui, intercettato dal cronista della Stampa, questo Paolo Aquilanti, dice «Sono qui di passaggio». Vabbè, il giallo rimane. Sta di fatto che è stata una giornata movimentata. Per la verità Repubblica scrive che c'è una maggioranza che tiene, ma è bufera ancora su Grasso. Renzi sarebbe arrabbiato anche con Grasso, perché Grasso che ha messo solo le modifiche nell'articolo 2, ma solo per un comma particolare, il comma 5 modificato alla Camera. Non se, lo dico sempre, se vi sta già venendo il mal di testa non vi preoccupate, non è che vi siete svegliati presto, è normale, insomma, è materia che fa venire il mal di testa e non credo che vi interessi molto. Comunque l'aspetto politico, scrive Repubblica, è bufera su Grasso, cioè c'è tensione anche tra la maggioranza e il presidente del Senato. Certo che però la tensione maggiore c'è stata per questo emendamento del senatore Cociancic, che è una sorta di piccolo canguro che fa saltare, fa bypassare altre votazioni e quindi è stato visto dall'opposizione come un attentato alla Costituzione. Va bene, veniamo alla questione invece del centrodestra. Il centrodestra alle prese con un Berlusconi redivivo che vuole tornare alla carica, vuole tornare, pare anche in TV, vuole tornare a contare, vuole fare un'opposizione molto dura. Per il momento, come ha raccontato ieri il Corriere della Sera, ha comprato una nuova villa in Brianza. Lui dice ai suoi collaboratori che non è vero che lì andrà a vivere Francesca Pascale e lui rimarrà ad Arcole. L'ha proprio comprata per andare a viverci con Francesca Pascale, semplicemente perché ad Arcole ormai quartier generale, l'intimità non c'è, sembra un via vai di persone e quindi vabbè, si sono comprati, o si è comprato meglio, una nuova villa a 8 chilometri da Arcole, in particolare a Casatenovo. questo Silvio Berlusconi, che però ha un progetto, per la verità anticipato da Libero qualche giorno fa, a dire: voglio persone, imprenditori, nuovi volti nella politica di Forza Italia futura, persone alla Mario Draghi, gente che ha avuto successo fuori dalla politica. Questo è il sogno di Silvio Berlusconi. Un Mario Draghi all'interno di una squadra di futuro governo di centrodestra e di Berlusconi è un qualcosa che torna e ritorna periodicamente. Vede, vabbè, allarghiamo gli orizzonti. No, c'è la questione del rapporto Rai politica. Beh, c'è ancora, è politica, ma è TV, è un po' tutto. Beh, Renzi ha detto: non è vero che facciamo alcun editto bulgaro, non c'è nessuna epurazione a Rai 3. E lo ha detto in un'intervista proprio al direttore del TG3, Bianca Berlinguer. Insomma, è andato a Rai 3 per cercare di rassicurare. Chissà se è una mossa così mediatica o se davvero sotto traccia stanno cercando di fare queste epurazioni. Certo, il conduttore di Ballarò, Massimo Giannini, fa due interviste a Repubblica, dove è stato vice direttore per tanti anni, e al Fatto Quotidiano. Dice a Repubblica il conduttore di Ballarò, Giannini: il premier ha aperto la caccia contro di noi, non siamo suoi cantori. Che ci sia stato un attacco è sotto la luce del sole, dice Giannini, ma voglio chiarire una cosa: io non cerco improbabili martiri. Dal punto di vista televisivo non ho né la storia né la stoffa di un Michele Santoro, vorrei solo far bene il mio lavoro. Per questo per me il caso è chiuso. Apprezzo il premier che ha smorzato i toni al TG3, che ha detto non ci sono liste di proscrizione, e aggiungerei ci mancherebbe altro. Ma il timore è che, toni a parte, la sostanza resti quella. La sensazione è che sia sgradito tutto ciò che non corrisponde alla narrazione che Renzi vuol proporre al paese. Quando dice che il primo risultato che la Rai deve conseguire è rendere i cittadini orgogliosi delle cose che vanno bene, provo un sottile filo di inquietudine. Così dice Giannini, che poi aggiunge: ho il massimo rispetto per i parlamentari della vigilanza, ma inaudite le parole dell'onorevole Anzaldi. Dire non hanno capito chi ha vinto mi ricordano i momenti più bui della Prima Repubblica, quando Bruno Vespa toccava dire il mio azionista di riferimento è la DC. Questo è ciò che dice Massimo Giannini, conduttore di Ballarò. Mentre il presidente della Commissione Vigilanza Rai, Roberto Fico, del Movimento 5 Stelle, intervistato da Alessandro Trocino sul Corriere della Sera, dice: inaccettabile che si facciano liste di gente da cacciare. Certo, però anche voi del Movimento 5 Stelle, chiede il Corriere, avete detto che Anzaldi è come Goebbels, ha detto Grillo. Ma sì, ma quello è il modo di parlare di Beppe, che con una forte estremizzazione ti facilita la comprensione di alcuni concetti e la sua forza. Beh, ma anche voi però avete fatto la rubrica Il giornalista del giorno, una sorta di blacklist del giornalista più che ha scritto l'articolo peggiore del giorno. Ma bisogna distinguere, dice Fico, quello è il blog, mentre dalle nostre bocche non è mai uscito un atto intimidatorio verso un giornalista. Va bene, la questione continua. Forse è bene chiosarla, poi ne parleremo con Carlo Freccero, dalle 8:15 è bene chiosarla come fa Iena sulla Stampa, pagina 3. Il comunismo è morto, in Grau è morto, almeno lasciateci il TG3. Eccolo qua, il giornalista del giorno è Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, stai facendo una forte estremizzazione. Effettivamente, lo scrivo sul mio blog. Non vorrei finire vittima delle tue forti estremizzazioni. Ecco. Anche perché, guarda, ho diverse cose da segnalarti, sì, quest'oggi sul Sole 24 Ore, ma come primissima cosa ti voglio dire oggi giornatona. Giornatona perché ti sei messo la cravatta? Ovvio. Non l'hai messa neanche oggi, d'accordo. Comunque, oggi finalmente abbiamo in vigore una definizione di abuso del diritto. Oh. A te questa cosa parrà poca cosa, ma invece sappi che è parecchio importante. Te lo spieghiamo in dettaglio, te lo riassumiamo bene nelle pagine di norme e tributi nella guida alla riforma fiscale, per la quale appunto ti invitavo ad indossare la cravatta. Fa niente, anche se non ce l'hai, te le facciamo leggere lo stesso. Poi, di stagione, sai che oggi è giovedì, uh-huh, quindi ci sono le pagine di casa 24, tra l'altro con un servizio molto interessante sulle caldaie. Comincia a fare freddino, perlomeno qui a Milano, quindi si approssima il tempo delle caldaie, si potrebbe anche risparmiare, sfruttare qualche sconto fiscale in extremis per questo 2015. Tanto più che per il 2016, caro Alessandro, cari ascoltatori, stiamo preparando la legge di stabilità. Allora, ci servono, leggo da Sole 24 Ore, poi tutti i dettagli, tutti i particolari naturalmente sul nostro quotidiano, ci servono all'incirca 7-8 miliardi, erano 10 ma forse ce ne bastano 7-8. Tu cosa puoi mettere? Beh, io sai che... Pochino, come al solito. Arrivo i soliti 2 eurini. La solita generosità, la solita carità pelosa. Allora, va bene. Ti voglio segnalare che dovremmo prenderne un 2,5 circa dalle stazioni appaltanti ridotte a 34, che siano un migliaio. È così, scrive Sole 24 Ore, caro mio, mica... dalla sanità 2 miliardi più o meno, dai ministeri 1, ma non si sa bene se poi lo faranno o meno, e poi ci sono le tax expenditures. Questo lo dico per la gioia di Angelino, le tax expenditures, non si sa, forse le rivediamo, forse no. Leggi il Sole 24 Ore di oggi, ti spieghiamo questo cantiere della legge di stabilità. Poi ti voglio dire, è pronto il decreto per l'apprendistato degli studenti, per aumentare appunto la quota di apprendistato degli studenti, ti riferiamo tutto nelle pagine di Imprese e Territori, fa attenzione, non mi andare subito a norme no. Invece in finanza ti segnalo probabilmente già domani il prospetto della quotazione in borsa della Ferrari. Questo però può essere un elemento interessante. I tuoi 2 eurini, se li hai lasciati in giro e ti hanno pizzicato una lista Falcianini, o Falciani come preferisci, ecco, sappi che un tribunale ha detto che quella lista vale anche ai fini penali. Quindi sappiti regolare, caro Alessandro. E poi un'ultima cosa ti voglio dire, so che è un argomento a te molto caro. Sì. Nel decreto sulla mobilità delle province, dei dipendenti delle province, ci sono dei criteri per la salvaguardia appunto di dei dipendenti che devono spostarsi, ma hanno magari figli, hanno figli piccoli e così via. Ti spiega tutto Gianni Trovati sulle pagine Norme e Tributi. Ti parlo di mobilità perché questa parola mi porta naturalmente a quell'altra che tu conosci. Traffico! Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Vi presenta... Segui sempre Alessandro Milan, perché chi volta il chio a Milan, volta il chio al pan. Beh, questo è un gran detto, è verissimo, verissimo su Milano, ma su Milan anche, se volete. Allora, grazie caro ascoltatore. L'attualità internazionale ovviamente è molto presente sui giornali oggi perché la Russia ha bombardato in Siria e su questo c'è grande tensione con gli Stati Uniti soprattutto. Grande tensione, nonostante Obama e Putin si siano visti faccia a faccia in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU dopo 2 anni di silenzi, ora questi raid. Tra l'altro vi segnalo pagina 2 del Corriere della Sera, oltre alla cronaca dei raid russi c'è un impressionante dossier presentato sul Corriere e riguarda un reportage fatto da un militare siriano, o meglio un fotografo della polizia militare siriana, che era stato incaricato dal regime di Bashar al-Assad di catalogare le immagini delle vittime della repressione, persone che venivano torturate e poi uccise. Cesar era il nome in codice di questo fotografo della polizia militare, che ha scattato 45.000 immagini delle torture di Assad nei confronti di civili, e poi cosa ha fatto? Ha tradito il regime, ha voltato le spalle alla Siria, è in Francia e ha portato con sé tutte le testimonianze delle torture. Così tortura e uccide Assad. Questo è il titolo di pagina 2 del Corriere della Sera. Un fotografo delle carceri del regime fuggito da Damasco pubblica un libro denuncia documentando 11.000 casi di torture. Parigi ha avviato un'inchiesta per crimini contro l'umanità nei confronti di Bashar al-Assad, da ieri sottoposto proprio in Francia a un'inchiesta giudiziaria con questo reato. Il racconto di questo fotografo è raccapricciante. Ve lo lascio alla lettura, se volete, sul Corriere della Sera. parla proprio di torture. Pensate che lui aveva questo compito incredibile di dover documentare tutto in foto. E dice: eravamo disgustati all'inizio, nauseati, potevo stare 3 o 4 giorni senza mangiare nulla. Poi tutto questo è diventato il nostro quotidiano, una routine. Un giorno addirittura un mio collega fotografo si trovava nell'ospedale di Mezzè. C'erano corpi disposti uno accanto all'altro. A un certo punto ho avuto l'impressione che uno fosse ancora vivo, respirava. Devo fotografarlo, è ancora vivo, ha chiesto ai militari. Ed ecco che arriva il medico legale che si arrabbia. Come ancora vivo? Ma come faccio io? Così mi cambiano i numeri. Era disperato, in collera, perché aveva già riempito il quaderno coi numeri dei cadaveri dopo le torture. E se quell'uomo era ancora in vita, il medico avrebbe dovuto cancellare e assegnare nuovi numeri, riscriverli. Anche i militari dicono: non preoccuparti, vai a bere una tazza di tè, quando torni il problema sarà risolto. Ecco, questo, alcuni degli stralci in realtà che vi ho letto, ma ce ne sono altri davvero raccapriccianti. Così Assad tortura i propri cittadini, questa è la testimonianza sul Corriere della Sera di questo rifugiato in Francia che ha girato le spalle al regime. Veniamo all'Italia, vi voglio raccontare due cose di cronaca. Una è questa, è un caso che ha diviso l'Italia anche quest'estate, riguarda la nota vicenda delle persone che a Milano sono sotto processo. Si tratta di Martina Levato, Alessandro Boccher e un'altra persona, con l'accusa di aver buttato dell'acido in faccia ad alcuni ragazzi. La vicenda che ha diviso l'Italia è questa. Sapete che Martina Levato, che è imputata di questo reato, nel frattempo ha avuto un bambino che le è stato tolto in questo momento, viene affidato a una comunità, è affidato. Che fare di questo bambino? Ci sono tribunali che devono decidere se questo bambino potrà essere poi affidato ai familiari di Martina Levato oppure se deve essere proprio tolto totalmente dalla famiglia. Eccolo qui, arriva una svolta, i servizi sociali suggeriscono: ci vuole una famiglia stabile per il bimbo di Alex e Martina. La coppia dell'acido. Così scrive Alessandra, scrivono Alessandra Corica e Franco Vanni. La situazione familiare sicura e stabile che non richieda continui trasferimenti. Questo è quello che è scritto in l'auspicio dei servizi sociali di Milano per il futuro del figlio di Martina Levato e Alexander Boccher, entrambi detenuti per una serie di aggressioni con lancio di acido. È un documento di 6 pagine che è stato consegnato al Tribunale dei minorenni di Milano, nel quale gli assistenti sociali relazionano i giudici su oltre un mese di incontri del piccolo coi genitori e i nonni, e la nota sarà d'aiuto ai magistrati per decidere la sorte del bimbo. Ci sono 3 possibilità. Il bambino potrebbe essere lasciato ai genitori naturali, oppure, questo è un po' improbabile, oppure, visto che rischiano il carcere, oppure affidato ai nonni, o ancora dato in adozione. In questo caso potrebbe essere affidato a una famiglia terza. I servizi sociali indicano che il neonato cresca in un contesto familiare stabile e dunque sembra escludere l'ipotesi che possa essere cresciuto da Levato e Boccher, i genitori naturali. Comunque non è la decisione finale, ma è l'indicazione dei servizi sociali. Vi segnalo anche questa sul Giornale: un fabbro batte Equitalia. Un fabbro batte Equitalia, annullate tutte le cartelle. Un artigiano ha fatto causa perché non ha fatto versamenti INPS e il giudice dà torto all'ente Equitalia, togliendo 660.000 euro di sanzioni a questo fabbro veneziano. La sentenza, che faccio vedere anche in diretta su Periscope, apre a migliaia di possibili ricorsi, scrive il Giornale con Gian Maria De Francesco, e la trovate a pagina 20 del Giornale, per l'appunto. Oh, devo solo velocemente fare i complimenti alla Juve, che evidentemente in Coppa si trasforma. Eccolo qua, signora d'Europa, faccio vedere anche in diretta agli amici di Periscope il titolo della Gazzetta dello Sport. Siamo però alla carta costa, l'articolo più inutile sui giornali. Va bene, Silvio Berlusconi vuol tornare, va bene il progetto politico, ma una pagina di Libero intera sulla festa segreta del compleanno di Silvio. Chi c'era, chi non c'era. C'era Bocelli, le foto, la festa segreta del compleanno di Silvio per i 79 anni, ma basta. Ma chi se ne frega! segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Vi presenta. Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Ciao Milan, che te portino via fuoco. Tu sei un mascalzone. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Siamo qui, 8 e 21 minuti in punto, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, Renzi alla fine l'ha risolta a modo suo, se è risolto il problema. Mi accusano di volere silenziare Rai 3, di volere liste di proscrizione, di voler cacciare i giornalisti che mi criticano. Allora che faccio io? Vado proprio al TG3. Mi faccio intervistare da Bianca Berlinguer, direttore del TG3. Eppure... parlare di questo, parlare di Renzi e la Rai, vuol dire scavare in quel problema annoso, forse irrisolvibile, del rapporto in Italia tra la politica e il giornalismo, tra i governi e la Rai, ma se volete tra il potere e qualsiasi mezzo di comunicazione, non solo quello del servizio pubblico, anche tra il potere e me, tra il potere e tutti noi della categoria. Diciamo che tutta questa storia è degenerata qualche giorno fa, quando il presidente della regione Campania De Luca si è lasciato andare a un commento di quelli pesantucci. Voi vi sintonizzate su Rai 3 e avrete atti di camorrismo giornalistico, di aggressioni personali, di imbecillità, ma tutto non ingenuo, tutto parte delle lobby radical chic del nostro paese. Avete capito. Poi c'è stato l'onorevole Anzaldi, che forse non conoscete, ma è una persona molto vicina a Renzi, Commissione Vigilanza Rai, dice al Corriere della Sera: a Rai 3 c'è un problema grande, non hanno capito chi ha vinto, proprio non lo riescono a capire. E si becca così del Goebbels da parte di Beppe Grillo, il ministro della propaganda hitleriana. E Renzi la risolve alla Renzi, appunto, ai funerali di Ingrao ieri incrocia Bianca Berlinguer, direttore del TG3, e dice: dai, vieni che facciamo un'intervista. L'editto bulgaro l'ha fatto Berlusconi, non ci sono editti bulgari da parte di nessuno, io non richiamo nessuno, sono qui con lei a fare un'intervista e a dire che quello che interessa ai cittadini è che l'Italia riparta. Problema risolto, lo chiedo a Carlo Freccero, che sta nel CDA della Rai. Buongiorno Freccero. Buongiorno a voi, grazie. Allora, tutto risolto, Renzi l'ha sistemata così, ha chiamato Bianca Berlinguer e eccoci qua, sono a fare un'intervista. Speriamo che sia risolto, però si continua il bombardamento, vedo che continua Anzaldi a parlare, dire appunto che non, le cose non vanno bene, eccetera, che la Berlinguer ha fatto fin troppo la Rai, allora che in qualche modo smette, quindi che è Vianello arrogante, quindi continua lui alla commissione di vigilanza a fare le pagelle, a parte il fatto che dice delle cose inesatte. Sì. La prima cosa inesatta è che non ha vinto Renzi, deve saperlo, le elezioni non sono state fatte. Ah, ha vinto le quindi. E quindi il primo errore, cioè ha vinto le europee, ok? Ha vinto quando non ha vinto le elezioni ancora, quindi prima cosa. Seconda cosa, poi anche se le avesse vinte, cioè è il concetto, vabbè, forse. Ma però cominciamo già da questo fatto. Seconda cosa, lui fa riferimento all'osservatorio di Pavia che nasce nel 97 per porre in qualche modo rimedio al conflitto di interesse, al fatto che Berlusconi naturalmente era in qualche modo era presidente, cioè era stato presidente del Consiglio e si doveva limitare in qualche modo l'influenza di Berlusconi nell'informazione, dato che aveva le tre reti Mediaset eccetera eccetera. Sì. Bene, oggi lo scenario è molto cambiato, oggi chi vince è una sola altra cosa, ve lo sapete molto bene perché parlo a Radio 24, che è un programma che rappresenta molto bene chi sta vincendo, cioè vince chi non vota. Il 50% di persone non vanno a votare, quindi questo qua mi sembra un elemento, e c'è su Radio 24, che è una radio molto importante, che è l'elite dell'imprenditoria, un programma, la Zanzara, che spiega appunto questo programma, che spiega, racconta l'elettorato del 50% che non può votare, quindi prima di tutto questa cosa, e quindi chiaramente non è che ha merito, vince relativamente, una vittoria molto relativa. Sì. Anche questo è l'altra cosa importante. Sì, ma la televisione. Ma qual è il problema? Il problema con Rai 3, secondo lei, Freccero? Cioè, no, perché che spinge De Luca anche a dire camorrismo giornalistico? Però mi meraviglio. Allora, voi sapete che si dice, io anzi lo sostengo, che Renzi è un figlio di Berlusconi, però se il papà è Berlusconi c'è anche una mamma, e la mamma di questo figlio è la Margherita. Anzaldi è in modo, quindi è un vecchio democristiano, insomma, o meglio un giovane, no, giovane democristiano, giovane vecchio democristiano. Quindi chiaramente è la Margherita, e anche diciamo così alcuni risvolti un po' post-meltroniani, eccetera. Quindi tutto quello che è di sinistra deve essere abolito, deve essere cancellato. Forse ieri si è commosso perché era al funerale, io ero presente al funerale di, sì, di Ingrao. È chiaro che Reichlin ha fatto un discorso in qualche modo che proprio non c'entrava nulla col PD, è chiaro che quindi lui si è sentito in dovere, e il clima che c'era in questo funerale, che non era solo di Ingrao ma anche della sinistra, ma c'è anche una foglia di sinistra, mi dispiace che anche su, sia su Radio 24 vedo questo, ma c'è purtroppo, mi dispiace per voi, ma c'è. Allora, e naturalmente allora si sente il dovere di chiamare la per sistemare così un po' le cose. Sì, però scusi Freccero, ma lei sta nel CDA della Rai, cioè cosa, sì, cosa può fare? Nel senso, cioè dovesse, no, dovesse domani sostituire Bianca Berlinguer, venisse sostituita, succede, un direttore può essere sostituito. No, tocca a me deciderlo, io capisco, visto che tocca stare al direttore generale, anzi, voi sapete benissimo che tutte le leggi che vengono fatte in questo direttore sono fatte in qualche modo per mettere un uomo solo al comando. Il progetto del potere che è in testa il signor Renzi è quello di avere, di eliminare ogni intermediazione, per cui la cosa dice il direttore generale diventerà un amministratore delegato e deciderà da sotto, noi non conteremo più nulla, c'è questa qua l'Italia di oggi, ma il problema, c'è una cosa che lui non capisce, la gente è infelice, la gente è infelice, c'è un tasso di infelicità che non si può sconfiggere con i numeri, eccetera. Quando dice che c'è più lavoro, ma dice che c'è un lavoro per sopravvivere, è drammatico, cioè, non lo capite? Cioè, ci deve essere anche un altro clima, cioè, questo qua non lo capisce lui, ha perso, sta perdendo. Addirittura, ha perso. Sta perdendo. Sta perdendo ma che cosa? Dico, il contatto col paese, sta perdendo. Sta perdendo quello che si dice appunto l'empatia col paese. La gente sopravvive, c'è un voto a un 40%, e di questo 40% vota il PD, cioè chi sta bene, insomma, chi sta bene vota un 20%, se è vero, è capovolto. Un paese che funziona è quando c'è, almeno c'è un'esclusione limitata, se la maggioranza, cioè il paese ha in qualche modo questo tasso di esclusione così alto, e poi è tutto il centro anche delle città è contaminato da questo senso di povertà, cioè deve capire che qualcosa è cambiato. Sì, ma poi bisogna anche capire quanto la gente sia interessata poi a questo rapporto tra politica e l'informazione. No, sì, chiedo anche perché... questo. No, ma devo dire però che tutti i programmi in qualche modo devono, i programmi di informazione, captare questa cosa. Torno a ripetere, Radio 24 ce l'ha un programma nel ma è la nostra grande Zanzara. Ma le chiedo, Freccero, ma Anzaldi è come Goebbels, o anche questo è un'esagerazione? No, Anzaldi fosse come Goebbels, Madonna, che complimento si farebbe. No, non è un gran bel complimento essere come Goebbels. No, Goebbels, ragazzi, me è uno dei teorici della propaganda, è uno che appunto, dovrebbe, però... appunto, bisogna studiarlo per capire, anzi bisogna affrontarlo, ci mancherebbe altro, lui è proprio, diciamo così, è uno che lavora molto, che sa, conosce molto bene cos'è la propaganda, ma la propaganda di partito, però ho capito, Freccero, però lei dice in pratica il disegno di Renzi è quello di fare un po' un'epurazione, se mi pare capire. Epurazione, di fare una Rai della nazione, cioè la Rai dove si racconta che tu Eiar, cioè è tutto bello, tutto tranquillo. Beh, c'è la Rai fascista vuol fare. No, la Rai fascista, la Rai di un conformismo. Cioè, ma non un senso per citare le parole, c'è una forma di conformismo totale. Lei sta nel CDA della Rai, dice non ho nessun strumento per fare nulla, per contrastare questa, no, non contiamo nulla. Non e naturalmente le cose si fanno, cioè bisogna in qualche modo testimoniare proprio con la propria operato, si testimonia poi con le opere, non con le parole, lei sa benissimo meglio di me. Vediamo un attimo, cioè io credo che poi ci siano, c'è un Presidente della Repubblica, c'è un un'opinione pubblica, c'è qualcosa che si muove, c'è il consiglio di amministrazione che decide tutto. C'è ad esempio, c'è lei che al mattino fa questa intervista, quindi c'è qualcosa che semina in qualche modo un po' di diversità dentro questa bicchiere d'acqua sempre così dolce, così che fa venire il diabete, cioè quindi qualcosa succede, è una piccola l'accusa, sa qual è, che dice Renzi, oggi fa un'intervista anche Giannini, il conduttore di Ballarò, a dire tutti coloro che si contrappongono a questo racconto, questo storytelling positivo dell'Italia che riparte, devono essere allontanati, dice Giannini, o comunque vengono ostacolati. Io non conosco l'intenzione del direttore generale e non si è ancora espresso, eccetera. Se fosse vero questo sarebbe veramente una tragedia, però devo dire anche che tutto ciò è possibile, meraviglio, perché con Berlusconi almeno le cose erano molto chiare, e invece senza Berlusconi è molto più, diciamo così, cambiato la cosa, tutto diventa naturale. C'è un abbandono molto forte, Berlusconi in qualche modo aveva creato ancora una effervescenza nell'opinione pubblica, ormai l'opinione pubblica si è addormentata, e non solo, la riprova è che non vince Rambo, come dice il signor Renzi, ma vince Il Segreto, vince Grand Hotel, vincono i romanzi d'appendice, vincono le telenovele. Cioè non vince né Rambo vince la TV così di intrattenimento, possiamo dire, puro. La TV della soap opera. La soap opera. Cioè Freccero che dice meglio Berlusconi, possiamo tradurla così questa intervista. Dico solamente che c'era almeno a livello mediatico. Era più chiaro. Sì, cioè, ma adesso comunque tenga presente, la cosa importante è questo fatto, la crisi dei talk, la crisi non solamente della TV generalista, la crisi del fatto che ha perso il pubblico borghese, del pubblico che legge i giornali, il pubblico che legge 24 ore, eccetera, l'ha perso tutto, e la crisi di un discorso politico ormai arsitico che ha ridotto il fatto che la politica deve solamente far sopravvivere la gente, non farla vivere. Quindi discorso molto importante, molto complesso. Però devo concludere con questo, Freccero. Arriva Netflix in Italia. Come benissimo, lei sta il CDA della Rai, dovrebbe dire questo è un rischio di concorrenza terribile, ma no? La Rai ha un altro compito. Guardi che la Rai avrà sempre un compito molto importante, perché arriveranno sempre delle cose nuove ormai. Ormai chiunque di noi, lei sa benissimo che il svolgimento è quello di avere uno spettatore attivo che sa scegliere i suoi programmi, che sa in qualche modo come usare la televisione, come usa il net, per cui ha un grande magazzino a sua disposizione. E uno va lì per scegliere tra la sua fiction preferita. Ecco, io invece sono sempre convinto che anche il passato, la TV del passato, la TV generalista ha un suo ruolo, quello di creare un'agenda. Di creare quella agenda e di creare quindi la condivisione, di creare in qualche modo un discorso pubblico, eccetera. Quindi questo fatto, io mi sono mai abituato a convivere con strumenti di comunicazione che declinano il passato, il presente e il futuro, e quindi chiaramente Netflix è il futuro. Ma viva Netflix, cioè se arriva ma ci mancherebbe altro, cioè le novità bisogna tenerle presente, e mi auguro solo che Netflix possa aiutare la Rai a essere più contemporanea e quindi anche ad esempio nella fiction a in qualche modo aprirsi delle novità. È tutto bene, guardiamo tutto bene, e guardiamo. I media funzionano sempre, e il potere che cerca in qualche modo di far funzionare i media secondo il suo volere, questo qua è il vero problema che c'è. Va bene, staremo a vedere anche con questo arrivo di questa Netflix che vorrà rivoluzionare anche il sistema del rapporto tra utente e TV. Grazie Carlo Freccero, grazie per essere stato con noi, membro del CDA della RAI Carlo Freccero, e grande conoscitore ovviamente del mondo televisivo da decenni. Allora, se volete intervenire 800 24 00 24, se volete dirci il vostro parere, il rapporto tra la RAI, Renzi, che ne pensate, RAI 3, oppure tra poco avremo il vice ministro Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli esteri per la verità, Benedetto Della Vedova, perché continua la campagna di mobilitazione, lui l'ha sposata, per cercare di fermare la condanna a morte che c'è in Arabia Saudita nei confronti di questo ragazzo, al Nimr. 17enne fermato per una manifestazione contro il regime saudita e per questo condannato a morte. La condanna dovrebbe essere eseguita, non c'è una data, non è una democrazia nella quale viene pubblicata la data, ma dovrebbe essere eseguita e potrebbe essere eseguita in qualsiasi giorno in questo momento questa condanna a morte nei confronti di questo ragazzo. Arabia Saudita. Però, a parte gli appelli, a parte l'unità, a parte il presidente francese Hollande, non è che la comunità internazionale si muova molto quando c'è da andare contro l'Arabia Saudita. Allora, sono le 8:40 minuti. Tante volte le battaglie combattute anche per salvare una persona possono essere battaglie che sono ben più importanti dall'esito positivo che si spera di raggiungere, cioè salvare quella persona singola. È il caso della campagna che si sta facendo e qualcuno può dire: ma perché vi spendete tutti per noi e pochi altri per la verità, ma perché fate questa campagna per dire salvate Ali al-Nimr, un ragazzo saudita di 17 anni, arrestato, adesso ne ha 21 per la verità, che in Arabia Saudita verrà condannato, è stato condannato a morte, verrà crocifisso fino a putrefazione. Uno può dire: ma chi se ne frega, al di là del disprezzo della vita umana, chi se ne frega di impegnarsi per una persona? Invece le battaglie vanno combattute, se sono giuste, anche per una persona, per affermare un principio che non è normale nel 2015. Per me non è normale la pena di morte in generale, ma non è normale non tanto l'esecuzione, ma anche il silenzio che c'è, un po' sordante a livello internazionale, a parte il presidente francese Hollande, a parte alcuni blogger, a parte alcuni ovviamente Amnesty International, ma non so, dagli Stati Uniti non si è elevata nessuna voce. Ancora ieri gli Stati Uniti hanno invitato l'Arabia Saudita al rispetto dei diritti umani. Tradotto vuol dire: non condanneremo mai la condanna a morte di un paese che è nostro profondo amico e alleato. Allora io saluto il senatore Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli esteri. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Lei invece, insomma, si è speso, ha sposato, ha detto: no, questa cosa non va fatta, questa esecuzione non va portata a termine. Arabia Saudita, fermati. Ma basta, perché c'è questo silenzio, Della Vedova? Ma guardi, io penso due cose. La prima è che dobbiamo sempre tener conto che proprio in ordine al salvataggio della vita del giovane Ali, in questo caso, un po' di diplomazia può anche servire, cioè voglio dire, attaccare di petto le autorità magari può, come in alcuni casi è successo, può avere un effetto contrario rispetto alla vita della persona. Dall'altra parte però, riconoscendo che l'Arabia Saudita è un'entità statuale riconosciuta e inserita nei meccanismi del diritto internazionale, nelle Nazioni Unite, a differenza di altri scenari di terrore e di esecuzione, di questo bisogna tener conto. È vero che l'Arabia Saudita è un partner importante delle economie occidentali sugli scambi economici e finanziari e in alcuni casi anche un partner strategico dal punto di vista della sicurezza nella regione. Tutto questo non deve significare, e questo è il mio pensiero, non deve significare che si chiudono gli occhi su cose che per gli standard occidentali ed europei in particolare sono inaccettabili. Ma anche non mondiali, cioè rispetto ai diritti umani. Era minorenne peraltro quando, certo, è stato arrestato. Perché qui non è solo una questione di pena di morte, perché poi giustamente mi si dice negli Stati Uniti, ieri certo, per esempio c'è certo. stata l'esecuzione di quella donna in Cina, ed è verissimo, anche se fortunatamente in Cina la direzione è alla diminuzione per esempio dei casi per cui la pena di morte può essere applicata. Qui siamo in un contesto, come lei diceva, di un minorenne. Non ci sono reati di sangue, sostanzialmente sono reati. Ha fatto ha partecipato a una manifestazione contro il regime. O al massimo un'arma detenuta, l'accusa è che ci fosse un'arma detenuta impropriamente, ma siamo e ci si ferma qui. La modalità. E più, e chiudo, c'è un altro punto che deve far riflettere l'Europa. L'Arabia Saudita è un paese, e i sauditi stessi, è un paese simbolo dell'Islam. L'immagine che in Europa si ha dell'Islam passa anche dall'immagine che da un paese simbolo dell'Islam viene proiettata in Europa. Noi abbiamo un tema, si vede in questi giorni in Germania con i profughi e i rifugiati. Abbiamo un tema fondamentale per sì. i prossimi anni in Europa, la compatibilità, la coesistenza e l'integrazione dell'Islam europeo nell'ambito sì. dei valori. Ma io credo europei. Che anche proprio per un partner commerciale importante è la possibilità di dire a questo partner commerciale, guardandolo negli occhi, guarda che su questo sbagli, no? I partner sì. dovrebbero, e la diplomazia dovrebbe funzionare anche così, con tutte le cautele del caso. Le chiedo però, della vedova, non c'è un po' di silenzio? Cioè lei, per esempio, che è lì al governo anche con Renzi, perché Renzi non spende una parola per dire salvate la vita a Daniel Nimr, che non vuol dire mettere in a repentaglio nessun tipo di rapporto con l'Arabia Saudita, ma affermare un giusto principio. Ma guarda, il punto nostro è che si riesca, i tempi sono strettissimi, lo sappiamo, perché la decisione che manca è quella del momento dell'esecuzione, che noi ci auguriamo venga quantomeno rinviata o sospesa. Il punto è, a mio avviso, di ottenere un passo da parte dell'Unione Europea, mm-hmm. perché i singoli paesi possono poco. Sono più deboli. Beh, chiaro, l'Unione Europea, in quanto tale, coesa su un punto del genere, ha una forza di dialogo e di pressione decisamente superiore alla somma dei paesi stessi. Questo certamente. L'Unione Europea è un interlocutore essenziale, vitale. Per l'Arabia Saudita. Hollande l'ha fatto, per esempio. Hollande l'ha fatto, che poi è criticato per altri motivi, abbiamo visto, è stato criticato perché è andato in Siria a bombardare, però in questo forse i francesi, quando si tratta del rispetto dei diritti umani tout court, sono un po' più rigorosi o no? Hollande è stato vocale, di per sé positivo. Credo però che se dobbiamo raggiungere l'obiettivo, che è nell'interesse innanzitutto del ragazzo, che è nell'interesse complessivo di una politica europea e occidentale, che non scambi l'engagement, il dialogo, la compartecipazione sui vari tavoli internazionali con paesi dove, secondo i nostri standard, non c'è un rispetto dei diritti umani, che non scambi questo coinvolgimento con il silenzio. Questo sì. Io devo dire, tra l'altro, sull'Unità, che è il giornale che da giorni mette in prima pagina anche la possibilità di appoggiare la campagna, che è anche un hashtag per chi sta su Twitter, ed è Free Nimr, Free come liberate, Nimr è Napoli, Imola, Milano, Roma, è il nome di questo ragazzo, Free Nimr. C'è anche la possibilità, ecco, per esempio, fare queste cose di mandare all'ambasciata dell'Arabia Saudita in Italia questi appelli. Secondo lei è giusto? Guardi che io da 3 giorni ne parlo ogni giorno, e c'è anche chi mi dice, senatore della Vedova, boicottiamo lo stand all'Expo dell'Arabia Saudita, cioè facciamo delle azioni, bisognerebbe fare azioni eclatanti. Lei che risponde a questo? Ma, guarda, io non voglio giudicare, stiamo attenti, perché le azioni eclatanti possono ottenere l'effetto contrario a quello che ci proponiamo. E consideriamo anche l'idea che, non voglio fare della poesia, so benissimo di quale drammaticità stiamo discutendo, però il dialogo forse è il modo migliore nel tempo per cambiare le cose. Se tu tiri un muro, poi ognuno resta sulle sue posizioni, sì. E anzi magari ha un alibi in più. Sì, c'è da dire che appunto il dialogo, e lei auspica l'intervento dell'Unione Europea, forse certamente potrebbe essere un innalzamento di livello, almeno di pressione diplomatica, no, nei confronti della Arabia Saudita. Il punto che è stato fatto a Torino, a Salone del Libro, lì già era una cosa anche dove ricordiamo la... quello è stato un segnale molto, perché ricordiamo forte. L'Arabia Saudita è il paese che dovrebbe essere il paese ospite d'onore al Salone del Libro, ma si sta ridiscutendo anche questo. Ecco, secondo lei è opportuno che l'Arabia Saudita sia ospite d'onore al Salone del Libro, oppure è meglio di no? Certo, diciamo che la soluzione più positiva per tutti sarebbe che da qui al momento della decisione finale sul Salone del Libro ci fosse un ripensamento, per esempio una sospensione, una decretazione della sospensione dell'esecuzione Questa sarebbe la cosa migliore. E quello deve essere il nostro obiettivo. Si può ottenere solo, ricordiamo, con la grazia del re dell'Arabia Saudita. Della Vedova le chiedo invece una domanda sull'attualità internazionale, la sottosegretaria agli esteri. Tutti i giornali oggi aprono con questi bombardamenti della Russia che hanno provocato, come dire, qualche mal di pancia americano in Siria. Anche se dall'altra parte anche il ministro degli esteri Gentiloni dice c'è uno spiraglio nella crisi siriana. In fondo, dopo 2 anni di gelo, Putin e Obama si sono guardati faccia a faccia. Allora, com'è? Litigano Stati Uniti e Russia oppure lo spiraglio per un accordo c'è? Io mi auguro che ci sia lo spiraglio per un accordo. Come tutti sappiamo, il groviglio inestricabile di posizioni e di interessi sul terreno in quella regione rende difficile, il manicheismo, dove si fa bene, dove c'è il bene, dove c'è il male. Anche i bombardamenti russi, acquisito il fatto che aumentare il dispositivo militare è comunque presente sul terreno, è comunque importante, sì, ai fini della sconfitta del Daesh. I bombardamenti di ieri ancora va capito fino in fondo cosa abbiano colpito, perché non tutti i nemici di Assad in Siria e gli oppositori di Assad fanno parte del Daesh, quindi bisogna chiarito questo. Comunque mi sembra non sono auspicabili più raid russi o chi che sia, lei dice? No, adesso il raid di per sé, senza dietro una soluzione politica che avanza contemporaneamente, rischiano di non essere una soluzione. Quando noi diciamo soluzione politica, uno dice voi volete tirarvi fuori da qualsiasi operazione vera, invocate la soluzione politica. Mi sposto di scenario. Libia. Noi oggi siamo alla ricerca tardiva di una soluzione politica. Per evitare lo scenario libico, la soluzione politica, come quella che stiamo cercando di aiutare l'ONU a trovare in Libia, cioè un governo di unità nazionale che riproponga un'entità statuale che possa avviare un processo di rinascita, quantomeno democratica, di Stato di diritto, questo processo va attivato in Siria prima che tutto crolli, lasciando un deserto di armi e di bande tra di loro in conflitto, perché sennò, ad esempio, la questione dei profughi la fermi se c'è una soluzione politica che dia speranza, non solo se hai sconfitto una banda e ne lasci altri. Sì, e non solo con i raid. E poi la situazione tragica la vediamo già sotto gli occhi, e con appunto le fiumane umane che arrivano nei nostri paesi. Io intanto la ringrazio, Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli esteri. Ripeto, la campagna continua sull'unità, c'è la possibilità di ritagliare e mandare all'ambasciata saudita Free Nimr il tagliando, per cercare di fare pressioni per salvare questo ragazzo lì al Nimr, campagna che anche 24 Mattino appoggia tutta la vita. Allora, e lo dico tutta la vita apposta, visto che stiamo parlando di una condanna a morte, non c'è tempo oggi per gli ascoltatori, perdonatemi Leonardo da Bari, Alberto da Modena, perdonatemi, vi recupererò la prossima volta, ma il tempo corre, il tempo fugge. Allora noi dobbiamo far sentire la nostra segreteria telefonica, perché incombe. Alessà, ma Marino è partito, è toccato salvato per le vite sopra l'aereo, e poi è nato lì in America e ha detto che ha fatto quello, quell'altro e quest'altro. Ma io dico, no, la metropolitana si è sbragata, Roma, ma non si vergogna, vergogna! Sì, Alessandro Milan, dalla Gruber, faceste carriera? Ah, buono! Milan, t'ho visto, t'ho sederita la Gruber a Rusiana, t'ho visto, sulla 7, bravo Milan, bravo, via Rusiana, ciao! Allora Milan, in dialetto romagnolo si dice... Niente doni, niente puteni, i parini fuori qua io, me a draghi colmatozza va a 3 milimon. Vabbè, così. Allora, cari ascoltatori, con Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e anche Peter Mescapè, regia, ci fermiamo qui e ci sentiamo sempre domani. Licenziato! Ma come? Così Oscar, così in tronco. No, non ho detto niente di male. Stavo solo dando l'appuntamento a domani mattina alle 6. Basta! Basta! Basta! Domani mattina, forse, se Oscar Giannino consente, siamo qui alle 6:30. Ciao! Attaccare!